Questa è Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure potete consultare il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sull'home page c'è sostieni per le modalità telematiche di sottoscrizione. Stiamo all'appuntamento, l'ultimo prima della pausa estiva, con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Francesco Cordio, regista del documentario L'altra faccia della medaglia, che andrà in onda su Rai Sport oggi giovedì 4 agosto. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Nuovo lavoro documentario, raccontaci un po' di questa avventura. Sì, questa volta ho cambiato decisamente tema e mi sono dedicato alle storie di sportivi. E tutto sommato alla fine è sempre un racconto del sociale e del politico del nostro paese. Sono tre storie di atleti che si preparano per le Olimpiadi e mi piaceva raccontare quello che sono le fatiche, le rinunce, i sacrifici che giovani atleti per 4 anni effettuano per poter raggiungere un obiettivo che è la qualificazione per le Olimpiadi di Rio e per un atto atletico che solitamente dura pochi secondi. E quindi cosa c'è dietro quel salto triplo di Fabrizio Donato che dura 7 secondi? E questo l'ho fatto per restituire un po' una dignità a quello che è l'atletica leggera in Italia, uno sport sempre relegato in fondo e che invece raccoglie giovani professionisti che davvero rinunciano spesso anche agli affetti, alle amicizie, e si pongono degli ostacoli un po' come nella vita, insomma, in qualche modo. La loro storia sportiva può essere una metafora di quella che è la vita di tutti quanti, ostacoli, obiettivi che con caparbietà hanno dimostrato di portare avanti. Io racconto in questo film le storie di Fabrizio Donato, appunto, che è un ostacolista, è un triplista, è l'unico tra l'altro a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Londra del 2012, l'unico nell'atletica leggera, e di Eusebio Aliti, che è un giovane di origine albanese, ormai italiano a tutti gli effetti, che vive a Bisceglie, che è uno ostacolista e che purtroppo per un infortunio poco prima dei campionati italiani assoluti non è riuscito a raggiungere il minimo per essere qualificato. E poi il racconto di Ayomide Folorunzo, che è una promessa dell'atletica leggera italiana, una giovanissima, anche lei è venuta in Italia quando aveva 9 anni e che correrà per i 400 ostacoli e è reduce dal record italiano under 23 e da un'ottima prestazione agli europei di Amsterdam. Sono tre storie che si incrosano tra loro, rappresentative delle centinaia di atleti che rappresentano l'Italia nelle competizioni nazionali e internazionali. Uno dei motivi, probabilmente il principale, per il quale l'atletica è relegata, come dici tu, è che smuove pochi soldi, quindi lo sport si sa che è dominato dai grossi giri d'affari. Purtroppo sì, anche se nell'analisi che ho fatto, alla fine nella sua accezione più ampia l'atletica è lo sport più praticato nel nostro paese, addirittura oltre al fatto che tanta gente corre la domenica ma gli altri giorni della settimana, già correre è un atto di atletica leggera. Ma l'altra cosa che ho notato e che apre un po' il film è questa, è che tutti noi, qualsiasi bambino appena impara a camminare, la cosa successiva che impara a fare è correre, e quindi direi che il gesto della corsa è il più istintivo che possa esserci. Solo che poi, dopo, verso i 12-13 anni, arrivano dei palloni tra i piedi e i ragazzini si cominciano a distrarre. Io il film l'ho iniziato perché ho accompagnato la mia figlia, la mia bambina, a trovare un'amichetta che faceva atletica, e lì ho scoperto questo mondo. Ci sono decine, centinaia di bambini che ogni giorno si allenano nei pomeriggi con grande, diciamo, convinzione, passione per lo sport, però poi molti si perdono per strada, e quindi alla fine il pallone, il calcio è quello che ci ritroviamo tutte le sere, tanto che stasera il film doveva andare in onda alle 22 e ieri ci hanno comunicato che slitterà alle ore 23 perché c'è prima una partita di calcio. è una condanna, niente da fare. Senti Francesco, la spinta iniziale come è venuta? Guarda, proprio così, andando a trovare questa bimba che si allenava per le Fiamme Azzurre, che c'è presso l'istituto penitenziario di giovanile di Casal del Marmo, il pomeriggio fanno i corsi per i bambini delle scuole, e lì ho sentito proprio la necessità di raccontarla questa cosa. Non è possibile che si perdano e si disperdano le volontà di tutti questi bimbi che da piccoli iniziano e poi non continuano, lasciano il percorso atletico per altre cose, insomma. E così mi sono avvicinato al mondo della FIDAL, la Federazione Atletica Leggera. Lì ho conosciuto le storie di molti atleti professionisti. C'è stato un po' l'imbarazzo della scelta, alla fine ho deciso di approfondire i racconti su questi tre atleti di cui vi ho detto, perché mi sembravano quelli un po' più rappresentativi in generale. In realtà di sicuro ho lasciato indietro storie anche molto belle, che però non potevo raccontare tutte. Il film si chiama L'altra faccia della medaglia proprio perché vuole raccontare quello che c'è dietro a un risultato sportivo, che non necessariamente deve essere una medaglia, ma appunto anche semplicemente una partecipazione a un evento sportivo così importante come l'Olimpiade. E ho toccato solo tangenzialmente il problema del doping, che è, diciamo, che è il retro di un'altra medaglia, quella. E mi sono fatto l'idea comunque che lo sportivo che dovesse essere trovato positivo al doping e che addirittura ammettesse di aver fatto uso di sostanze dopanti per poter avere un risultato in allenamento più importante, e debba assolutamente essere ritirato dalle attività atletiche, che quindi non è giusto dare un'opportunità a chi ha sbagliato di rappresentare il paese, di vestire la maglia azzurra in rappresentanza dell'Italia. Potrebbe, diciamo, sembrare anche una cosa piuttosto drastica, però lo trovo profondamente ingiusto nei confronti di chi invece fa grandi sacrifici e cerca di allenarsi in maniera pulita. Senti, visto che hai avuto accesso, insomma, per un periodo l'hai vissuta da vicino, lo stato di salute dell'atletica, per quello che hai potuto vedere? Beh, diciamo che deambula, non gode di ottima salute, ma proprio perché mancano i fondi, i finanziamenti che possano permettere, per esempio, di creare all'interno delle scuole pubbliche dei percorsi. Sono molto rari all'interno della scuola italiana le attività di atletica leggera, e poco ci si scommette, ecco. Probabilmente bisognerebbe partire proprio da lì per rinvigorire l'atletica italiana. Francesco, oggi andrà su Rai Sport il tuo documentario. Intanto dici l'orario e poi che futuro ci sarà per un'eventuale distribuzione. Allora, il film, che è stato prodotto da On Air, che è una casa di distribuzione online, un bellissimo portale con tantissimi titoli da tutto il mondo, e che da qualche mese, qualche anno ha iniziato a produrre i primi documentari. Il film prodotto da loro e andrà in onda questa sera su Rai Sport, che è il canale 57 del digitale terrestre, alle ore 23, e a seguire avrà un percorso da film documentario, quindi festival e proiezioni qua e là nel paese. Io con i miei film precedenti, in particolare Lo Stato della Follia, di cui abbiamo anche parlato con te negli anni passati, ho creato una sorta di piccola mia distribuzione indipendente, quindi ho mappato l'Italia censendo i cinema che potevano essere più sensibili al cinema documentario, a un certo tipo di cinema, e ho in qualche modo creato una rete su cui posso contare. E di questo vado abbastanza orgoglioso, perché non è facile portare il cinema documentario in sala. Senti, per saperne di più c'è una pagina Facebook, un sito internet? C'è una pagina Facebook che si chiama L'altra faccia della medaglia, il film, e lì ci sono tutte le informazioni. Anche in Rai ci saranno anche altre repliche, insomma i giorni e gli orari non li so, ma lì verranno poi puntualmente comunicati. E mi fa piacere sottolineare una piccola nota, che la parte musicale, come sempre nei miei film, ha una parte importante. Le musiche sono di Nuove Tribù Zulu, Gianluca Misiti, e di Bussoletti, che ha scritto un brano appositamente per il film dal titolo Correre, e che canta insieme a Mauro Ermanno Giovanardi, che è una voce bellissima della canzone italiana, del cantante dei La Cruz. Non so se Sì. Tra l'altro ricordi, Gianluca Misiti lo abbiamo incrociato più volte per i suoi lavori teatrali. Esatto, lui è la parte musicale di Forte Braccio Teatro. Esatto. Bene, Francesco, allora è sempre un piacere e speriamo di risentirci presto. Grazie Federico, buona giornata a tutti. Ciao. Francesco Cordio, regista del documentario L'altra faccia della medaglia, oggi su Rai Sport, oggi giovedì 4 agosto. Eccoci con Alessandro Parrello, regista e protagonista del cortometraggio Il lupo del pollino, che sarà presentato al Lucania Film Festival l'11 agosto prossimo, giusto Alessandro? L'11 agosto, ragazzi, eccoci, grazie per l'invito, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, Il lupo del pollino, si parla di brigantaggio, un argomento spesso al quale spesso il cinema ha dedicato attenzione. Raccontaci un po' com'è nata intanto questo interesse per farne un lavoro. Allora, intanto mi è stato chiesto di farlo, perché voglio dire, a parte il fatto che mio nonno era lucano, io sono da Roma, sono romano, però mio nonno era lucano, e quindi quando ero piccolo mi raccontava un po' di queste storie, sì, un po' a mo' di fiaba. Poi è capitato che lo scorso anno, verso ottobre, stavo facendo un lavoro in Basilicata, in questo paese che si chiama San Severino Lucano, in provincia di Potenza, e praticamente loro mi hanno chiesto di interpretare il brigante Antonio Franco, perché avevano un progetto di raccontare un monologo, e inizialmente doveva essere un monologo su questo personaggio, al che io ho proposto invece di raccontarlo in forma cinematografica, e di conseguenza poi, insomma, con lo sceneggiatore Angelo Antonio Petruzzella abbiamo scritto, anzi sta scritta lui in realtà, egregiamente devo dire, la storia, ed è venuto fuori un bellissimo lavoro, devo dire la verità. Senti Alessandro, su quali materiali vi siete preparati? Beh, lo sceneggiatore ha fatto molta ricerca storica in realtà, quindi c'è stata una grossa ricerca storica del periodo, poi abbiamo fatto una ricerca sui costumi, su tutto quello che era un po', diciamo, l'aspetto proprio storico dell'Italia, perché comunque stiamo parlando di un'epoca che va dal 1860 al 1865, sì. Quindi siamo, insomma, nei periodi dell'Unità d'Italia. Per cui viene raccontato l'aspetto della storia dalla parte dei briganti, ossia dalla parte dei poveri che in qualche modo si ribellavano alle ingiustizie, diciamo così, alle alte tasse che erano imposte, cercavano di fare qualcosa per combattere quella situazione, venirne fuori, e quindi, diciamo, diventavano briganti purtroppo per loro per costrizione. non per scelta molto spesso. Senti Alessandro, ecco, che taglio avete voluto dare al lavoro e su quale aspetto della storia vi siete concentrati? Beh, noi abbiamo dato un taglio sicuramente molto cinematografico, perché anche se c'è un nonno che racconta, diciamo, questa favola del brigante, la storia del brigante al bambino, il bambino rappresenta un po' il punto di vista dello spettatore che poi guarderà tutta la trama, però è raccontata molto in chiave cinematografica, veramente, dai colori, dalla fotografia, dalle inquadrature. Abbiamo usato anche delle riprese aeree per raccontare e descrivere anche molto bene la zona del Pollino, quindi tutta la parte scenografica esterna è molto bella per quello. E comunque abbiamo preso un punto di vista del protagonista, cioè di Antonio Franco, e della sua storia d'amore con Serafina Ciminelli, che l'ha seguito proprio per amore nella vita da briganti, quindi fuggiaschi, e sono costretti poi ad una vita da miserabili, purtroppo per loro entrambi. E abbiamo raccontato, diciamo, gli aspetti proprio della vita quotidiana, quindi l'assalto, c'è stato in realtà un particolare storico che insomma piaceva raccontare, da quello di un determinato assalto che la banda di Franco fece a dei ricchi signori che andavano verso Martea, scortati da guardie eccetera. Noi abbiamo raccontato quell'episodio, abbiamo raccontato anche poi come finisce, diciamo, la parte finale degli anni della storia di questo brigante, che poi morì giovane in realtà, perché aveva poco più di 30 anni. Senti, che ne sarà dopo questa presentazione al Lucania Film Festival? Allora, ne sarà che il 2 lo presenteremo anche a Venezia nello spazio Fabrique du Cinéma, sì. Poi lo stiamo presentando, spero, a tanti altri festival dove lo stiamo mandando, ma con ogni probabilità diventerà anche un film, questo lo posso già dire perché ci stiamo già lavorando. Benissimo. Senti, e per saperne di più in rete dove si può cercare? Allora, per saperne di più in rete basta scrivere Il Lupo del Pollino cortometraggio, oppure basta andare sul nostro sito www.west46films.com, quindi l'ho detto anche in inglese. E, insomma, se si troverà presto, si troveranno anche altre notizie, perché poi mano a mano che passa il tempo e che i festival comunque lo prendono, poi ci saranno altre novità. Insomma, è un bel lavoro. Devo dire che spero anche che, insomma, di avere la possibilità di proiettarlo nelle scuole, perché è una storia dell'Italia poco conosciuta, come hai detto tu all'inizio, e quindi io credo che meriti l'attenzione in qualche modo, non solo cinematografica, ma anche proprio delle persone, dei ragazzi, perché è un aspetto reale che è esistito, ha fatto parte del nostro patrimonio proprio culturale del Sud Italia povero, e quindi insomma come tale va raccontato. Certo. Per quello ci tenevamo a fare un bel lavoro, spero di esserci riuscito. Allora, chissà, magari ci risentiremo in occasione dell'ultima azione dei lavori per il film. Sì, spero anche prima, insomma. Anche prima. Film, certo. Insomma, adesso noi da settembre ci metteremo, dovremmo avere la sceneggiatura pronta del film, poi io magari spero di poterti dire che l'anno prossimo batteremo il primo ciak. Benissimo. Benissimo, allora un abbraccio, in bocca al lupo intanto per questa presentazione, e poi a presto. A presto, grazie mille, ciao, un abbraccio Alessandro. A voi, ciao. Buon lavoro, ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Alessandro Parrello, regista e protagonista del cortometraggio Il Lupo del Pollino, a Lucania Film Festival a Marconia di Pisticci, provincia di Matera, il prossimo 11 agosto. E siamo in collegamento con Massimiliano Mazzotta, direttore della terza edizione del Life After Oil Film Festival a Stintino, provincia di Sassari, dal 4 al 7 agosto, quindi a partire da oggi. Massimiliano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, buongiorno, e grazie per avermi invitato, grazie. Terza edizione di questo festival, intanto spieghiamo a chi ci ascolta e non lo conoscesse quali sono le caratteristiche. Ma Life After Oil, la vita dopo il petrolio, è già il diciamo l'end del festival, che è più un modo di essere che un festival di cinema, lo è anche, ma è anche un modo di essere che dobbiamo iniziare a pensare, appunto, anche un'alternativa alla risorsa naturale di cui ne facciamo uso. E io voglio subito dire due parole su Giuseppe Ferrara, visto che mi aveva premiato con il mio primo Oil ed era stato qui a Martis il 9 novembre del 2013 a inaugurare la prima edizione di Life After Oil, e Giuseppe era anche presidente onorario dell'associazione, abbiamo fatto questa serata per lui, e manderemo Inchiesta a Perdas de Fogo del 61. Era le prime volte che usava il microfono, una pellicola a 16 mm a colori, diciamo dei primi espropri delle terre che venivano fatti dove adesso c'è il poligono Interforce del Salto di Quirra. Senti, allora intanto quanti lavori saranno presentati all'edizione 2016? Allora, intanto ci sono arrivati 142 film, di cui 75 documentari oltre un'ora, diciamo. Quest'anno i film in concorso sono 19, 9 corti, 6 documentari italiani e 4 documentari internazionali. Poi abbiamo una sezione, diciamo, fuori concorso che comprende 4 film e una sezione Heroes 2020, che è un bando regionale della Film Commission Sardegna che promuove, diciamo, incentiva i registi a girare film pensando a una sostenibilità ambientale non solo nella fattura del film ma anche nel quando lo giri un film. Senti, ecco, questo... a proposito di sostenibilità ambientale, le tematiche più ricorrenti nei lavori che saranno presentati quest'anno? Ma allora, questa sera partiamo con Black Eyes di Martin Van Roverooy, Olanda 2014. Martin è stato, diciamo, attivista di Greenpeace per 25 anni e quando l'Arctic Sunrise sono stati arrestati perché, diciamo, le multinazionali trivellano l'Artico, hanno fatto credo più di 150 buchi nell'Artico tra tutte le multinazionali. Non è casuale che mandiamo questo film perché Rosneft è socio della raffineria di Moratti in Sardegna, quindi i russi sono al 25% proprietari della Saras in questo caso. E quindi, come dire, è uno specchio più internazionale. Quindi si parla di trivellazione dell'Artico, si parla di Mezhaniak, che è un sito archeologico, uno dei più grandi al mondo, dove l'ISIS aveva fatto saltare il Buddha, se ce lo ricordiamo, l'abbiamo visto in televisione, dove i cinesi sotto il sito archeologico hanno trovato uno dei più grandi giacimenti di rame mai esistiti, quindi vorrebbe dire 100 anni di energia elettrica probabilmente per il pianeta. Poi abbiamo Bikes vs Car di Frederick Gerten, appunto Biciclette contro macchine, un film appunto molto che ti fa vedere appunto che a Rio de Janeiro ci metti anche 3 ore se vai in macchina e quindi la gente ha deciso di andare in bicicletta piuttosto che andare in macchina. Quindi questi sono, diciamo, i temi, sì, quelli internazionali, sì, sì. Dopodiché ci sono anche i documentari italiani, che sono 6, e sono Behind the Urals, che è uno dei disastri, quello prima di Chernobyl del 57, della centrale di Majak, dove Stalin testava le armi nucleari, e Alessandro Tesei, che è stato da noi la prima edizione con Fukushima. Riproponiamo un altro film sul nucleare, sempre suo. Poi abbiamo di documentari sardi nel tramonto di un paradiso, che è fatto da un collettivo di ragazzi sardi di più o meno 22 anni, l'età media del collettivo. Poi abbiamo Il presagio del ragno sulle tonnare di Carlo Forte, sì. Steve Fast on Our Sand dei Zimmer Frey, girato in Olanda. E poi abbiamo di altri documentari, diciamo, lunghi, abbiamo Uferru di Marco Leopardi, che è, diciamo, la cattura del pesce spada, che, diciamo, è una delle più sostenibili, sì. Perché viene fatta a mano e anche sì, perché sì. Il pesce spada rompe tutte le reti, quindi devi farlo per forza così, e sappiamo che abbiamo nel canale dello Stretto di Messina delle barche apposite che fanno questo tipo, sì, questa tipo di pesca. Sì. Ne avevamo parlato anche con lui e tra l'altro diversi vostri ospiti sono già passati per la radio, quindi c'è sicuramente un legame. Massimiliano, tutte le informazioni in rete dove voglio ricordare una, sì, cosa importante, però, perché è appena uscita un'ANSA. Sì. Noi mandiamo come evento speciale del festival Kvan, è il nome di una donna irachena. È arrivato un film dall'Iraq molto duro, il regista doveva essere qui, ma 2 settimane fa l'ISIS ha ammazzato il suo fratellino più piccolo, e quindi è appena uscita un'ansia con un'intervista al regista, perché appunto si vede nel film i trattamenti che l'ISIS riserva alle donne quando fanno irruzioni nelle case, e dico solo che per Allah non è previsto l'incesto. e quindi posso, come dire, poi capire bene. Il trailer è online, Kvan di Ali Al Jabri, sarà l'evento speciale del festival che sarà il 6 agosto alle 23:45. Tutto si può trovare su lifeafteroil.org, dove c'è programma, dove potete scaricare il catalogo e tutti gli eventi collaterali, che ce ne saranno due. Fabrizio Cassinelli sull'Iran, è un giornalista dell'ANSA che uscirà con un libro a settembre, ma che viene a parlarci di Iran, appunto perché mandiamo un film sull'Iraq. E Franco Berrino, epidemiologo, 82 anni, uno dei fondatori dell'Istituto Tumore di Milano, che verrà a fare un workshop sul cibo, appunto facendoci capire come prevenire il cancro quando si fa da mangiare, perché poi alla sera manderemo 10 billion, What's on Your Plate di Valentin Turn, legato appunto al cibo. Valentin era candidato all'Oscar con Taste the West, e quindi noi leghiamo sempre un workshop in base ai film che arrivano. Benissimo. Massimiliano, allora un in bocca al lupo, speriamo di risentirci presto, è sempre un piacere, e alla prossima. Grazie, grazie a voi, grazie. Ciao Massimiliano. Massimiliano Mazzotta, direttore della terza edizione del Life After Oil Film Festival a Stintino, provincia di Sassari, in Sardegna, dal 4, quindi da oggi fino al 7 agosto. In collegamento con Stefano Gabbiani, regista del documentario Contromano, che sarà al Clorofilla Film Festival nel Parco della Maremma Grosseto il prossimo 5 agosto. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, ciao. Tra l'altro abbiamo dedicato al tuo documentario la copertina della puntata di questa settimana, con un fotogramma di scena con una testa vicino ad una ruota di bicicletta. La bicicletta è una nostra passione, e tra l'altro poco fa abbiamo parlato con Massimiliano Mazzotta, che dirige la terza edizione del Life After Oil Film Festival in Sardegna, un festival appunto sulla vita dopo il petrolio. Contromano, Stefano, di cosa ci racconta? Allora, Contromano, per ricollegarci alla vita senza il petrolio, o con meno petrolio perlomeno, racconta la storia di due persone che si sono reinventate, un po' come la città che accoglie le loro storie, che è Torino, e sono diventate riparatori di biciclette. Uno è un filosofo, è un ragazzo laureato in filosofia, che però tramite la riparazione delle bici ha trovato una strada, una strada concreta, e l'altro è una persona che ha un passato abbastanza burrascoso alle spalle, fatto di eccessi, di una vita veramente difficile, ed è anche lui, tramite la bici, tramite l'amore per questo mezzo che non inquina, è riuscito a risollevarsi, quindi a trovare una sua dimensione, una sua strada. E quindi è la storia di queste persone che tramite la bici sono riuscite a reinventarsi. Come è cominciato tutto? È cominciato tutto da una semplice constatazione. Ho letto qualche anno fa che Torino, che è la mia città anche, è una delle città più inquinate d'Europa. E io non lo sapevo, banalmente ignoravo questo fatto. Sicuramente sapevo che non era uno dei posti più con l'aria più pura sulla faccia della terra, però non immaginavo che fosse una delle città più inquinate d'Europa. E da lì mi è venuto proprio un po' una molla, è scattato qualcosa, e ho pensato che si doveva raccontare una storia ambientata in questa città che potesse aiutare a vedere le cose in una maniera un pochino diversa, in una dimensione un pochino diversa, meno inquinante, meno improntata sul consumismo, appunto quello della riparazione ad esempio della bici, e non sempre del dover ricomprare immediatamente appena un oggetto si rompe. E quindi è nato da questa esigenza, proprio da cittadino, del dire no, cioè deve esistere una strada diversa da quella a cui siamo abituati. E quindi sono andato alla ricerca di persone che potessero incarnare nel vero senso della parola questo possibile cambiamento, ed è da lì che è nato tutto. Senti, è sempre più diffuso mi sembra l'uso della bicicletta in una città come Torino. Io parlo per esempio per Roma, ma immagino che anche lì sia l'andamento sia questo. Sì, sicuramente. Guarda, questo è un cambiamento che sta avvenendo, forse in maniera ancora incostante, ancora lenta rispetto ad altre parti d'Europa. Penso ai paesi del nord come la Danimarca, l'Olanda, che sono un po' i punti di riferimento per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Noi siamo sicuramente molto indietro rispetto a loro, però stiamo invertendo la rotta, questo è sicuro. Cioè, le persone stanno iniziando ad usare di più la bici e c'è una sensibilità sicuramente maggiore rispetto anche solo a 10 anni fa. Quindi questo è sicuramente un trend positivo che speriamo si alimenti sempre di più e che possa dare dei frutti concreti. Senti Stefano, che belle scoperte hai fatto seguendo l'attività di queste due persone? Ma ho scoperto che non ci si deve mai arrendere, cioè che bisogna sempre cercare di vedere la realtà anche quando questa realtà non ci piace, anche quando la realtà ci sembra brutta. Bisogna cercare comunque di guardarla e di rimboccarsi le maniche e di cercare ognuno nel suo piccolo di fare qualcosa. E quindi queste persone mi hanno insegnato questo, l'umiltà e la voglia di cercare di incidere su una realtà che non ti piace, e non solo quello di piangersi addosso o di dire le cose non funzionano, non vanno. Non basta, cioè ci vuole anche uno scatto poi di orgoglio in un certo senso, uno scatto di forza, secondo me. Stefano, dopo il Clorofilla che strada prenderà il tuo documentario? Questa è una bella domanda. Nel senso che come sai, come immagino tu sappia, la dimensione del documentario non è facilissima. In Italia, probabilmente anche in altri stati, ma io parlo per quello che conosco. In Italia non è facilissima, quindi una distribuzione vera e propria è difficile da realizzare. Diciamo che a livello di festival siamo molto contenti, perché un progetto che è nato veramente in maniera indipendente e con un budget limitatissimo è riuscito a trovare una sua visibilità. È stato negli Stati Uniti, a un festival internazionale, in Messico, andrà in Spagna ad ottobre, molto probabilmente a Barcellona. Quindi ha avuto una visibilità che noi all'inizio non ci aspettavamo, onestamente. Detto questo, ovviamente poi tutto il resto è ancora da scrivere, quindi speriamo che i primi frutti che già sono arrivati portino a qualcosa in più. Senti, ci dai i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora noi siamo presenti con una pagina Facebook che si chiama Contromano il Film, ed esiste anche ovviamente un sito internet del film che si chiama contromanoilfilm.com. Benissimo. Questi sono i due riferimenti principali. Stefano, se sarai al Clorofilla ci vediamo lì. Va bene. Un abbraccio. Anche a te, grazie mille dell'ospitalità. Ciao, a presto. Ciao. Stefano Gabbiani, regista del documentario Contromano al Clorofilla Film Festival, Parco della Maremma, Grosseto, prossimo 5 agosto, ossia domani. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più potete consultare il sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ed eccoci con un altro lavoro che sarà presentato al Clorofilla Film Festival, questa volta l'11 agosto, con Maria Tilli per parlare del suo documentario La gente resta. Maria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. La gente resta dove? A Taranto, nel quartiere Tamburi in particolare. Ok, precisamente. Raccontaci un po' di questo documentario. Beh, questo documentario nasce da un'idea, insomma, di una persona che lavorava a fabbrica, che poi l'ha prodotto e voleva raccontare quello che stava accadendo, insomma, in quella città, quello che sta accadendo da 60 anni in realtà. E quindi ci siamo posti, insomma, diversi problemi nell'affrontare questo argomento, fino a quando non abbiamo trovato una famiglia che racchiudeva in sé tutte le contraddizioni della problematica ILVA, che non è solo una problematica ambientale, ma anche una problematica umana, emotiva, che crea conflitti all'interno delle famiglie. E questa storia cosa vi ha portato a vedere? Beh, ci ha portato a vedere come, appunto, all'interno, praticamente il film parla di questi tre, di questa famiglia, sì, composta da tre fratelli che sono entrambi pescatori, come era il padre, che aveva una baracchetta con scritto sopra Mario Resta, anche sul mar piccolo, che è il golfo marittimo proprio che si affaccia proprio dietro le vasche di raffreddamento dell'Ilva. Sì. Questo gigante enorme, e allo stesso tempo tutti e tre lavorano in fabbrica con tre ruoli diversi, tutti e tre all'Ilva, e in realtà nessuno dei tre ci vuole lavorare, cioè loro avrebbero voluto continuare o quantomeno ricominciare a fare quello che facevano da bambini, perché insomma tutti e tre hanno cominciato a lavorare da bambini, che è pescare, vivere col mare, cosa oggi impossibile, non solo per delle problematiche economiche, ma anche per delle problematiche ambientali, cioè il pesce non c'è più. Senti, com'è la situazione oggi a Taranto? La situazione oggi a Taranto purtroppo ha risentito molto della risonanza mediatica, no? Quindi finché siamo stati tutti sulla cresta, finché l'argomento è stato sulla cresta dell'onda, c'è stata un po' una gara al protagonismo, e con questo mi riferisco anche a tante associazioni, tanti enti corporativisti che assolutamente a fin di bene si sono messi in mostra, poi però purtroppo credo che dopo l'ondata mediatica si sia un po' spento il riflettore su questa tragedia, perché insomma per bonificare l'Ilva non so quanti millenni e quanto lavoro ci vorrebbe, altrimenti uno dovrebbe abbandonare la propria terra come fanno tanti lì e come fanno tanti al sud e andare via, e questo è un problema più universale che ha sempre riguardato il sud Italia, il meridione, il mezzogiorno. Senti, ecco, su due punti mi piacerebbe sapere lo stato delle cose. Intanto sull'inquinamento e poi dal punto di vista dei giovani la questione lavoro. Allora, l'inquinamento, abbiamo detto, è praticamente satura di diossina quella città. I bambini non possono andare nei campetti di calcio, al cimitero non si può accedere a certe zone, e insomma qualsiasi, è una situazione post apocalittica, cioè uno dovrebbe settarsi su un altro modello di vita che non è assolutamente umano. A livello di lavoro invece molti giovani, guarda, ti faccio un esempio un po' triste, e si è spento uno dei tre protagonisti del mio documentario che è all'interno del mio film pochi mesi fa. E il figlio, che aveva 16 anni e anche lui c'è nel documentario, ha preso subito il posto del padre, che faceva un lavoro part time come manutentore, insomma pulizie degli spogliatoi dell'Ilva e di tutte alcune aree dedicate agli operai. Quindi è così, ma un giovane, un 17enne ovviamente, un 20enne, un 25enne non ha neanche l'idea di Taranto senza l'Ilva. Cioè noi diciamo l'Ilva, pensiamo a una fabbrica che sta in un posto, l'Ilva è più grande della stessa città e a livello proprio di skyline è sempre presente, quindi automaticamente non si riesce neanche a pensare un lavoro che non sia l'Ilva, perché tu lo vedi lì tutti i giorni, quindi per te è normale che andrai a finire lì. Senti, il titolo comunque dà l'idea di una sorta di determinazione, perché la gente volente o nolente forse resta, però dà insomma in prospettiva l'idea di una sorta di riscatto. Beh, in realtà un riscatto sì, però più che sociale è storico, perché la cosa poi positiva del film che emerge è quanto questa famiglia, che poi è il simbolo di una comunità, abbia appunto conservato il senso della comunità anche in una tragedia simile. Quindi il contrario di quello che sta accadendo al mondo, no? Che ci stiamo ripiegando tutti verso un individualismo ferocissimo, in cui per esempio un fenomeno come l'ISIS è proprio l'incarnazione perfetta. e invece lì si, nonostante questo, si riesce ancora a fare rete comune, rete sociale intorno alle problematiche, anche se chiaramente è Davide e Golia, assolutamente non basta per fronteggiare una catastrofe del genere, però è un punto positivo, quindi più che di riscatto, di appunto di vincita storica, conservare un'identità, ecco, conservare l'identità oggi forse è la sfida più grande, e non intendo come tradizione, non intendo come soltanto usante, non dico che bello perché hanno conservato la tradizione del papà, dico che bello perché l'unità, la comunità, l'identità, riconoscersi esseri umani negli altri esseri umani potrà essere l'unica chiave di svolta della situazione mondiale attuale. Senti, la gente resta, sta facendo un percorso festivaliero? Sì, è stato a Torino, dove ha vinto il premio al Torino Film Festival, dove ha vinto il premio della giuria, e poi è andato in diversi altri festival, e quest'estate farà un percorso proprio in Puglia con credo tre o quattro proiezioni. Alla tua presenza? Non proprio tutte, però sì, cercherò di esserci perché poi diventa impegnativo esserci, sì, proprio sempre, perché sì. Poi la cosa bella è che i tuoi film, no, camminano senza di te, che poi è lo scopo per cui tu li fai. Certo. Senti Maria, per saperne di più c'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è la pagina Facebook La Gente Resta, dove sono tutti i contenuti, gli articoli, un articolo del manifesto, di Wired, tutti, insomma, tutti i posti e tutti i modi in cui se ne è parlato, in cui è stato recepito. Benissimo. Allora, un abbraccio e ci si vede al Clorofilla. Va bene, grazie mille. Ciao Maria. Ciao. Maria Tilli, regista del documentario La Gente Resta al Clorofilla Film Festival nel Parco della Maremma, provincia di Grosseto, il prossimo 11 agosto. E rincontriamo il nostro Tino Franco, questa volta per parlarci della nona edizione del Cyborg Film Festival ad Anghiari, in provincia di Arezzo, da domani 5 agosto fino al 7. Tino, ben ritrovato. Ciao Federico. Allora, che cosa c'entri tu nel Cyborg Film Festival? Ma come al solito, spinti dalla passione smodata nei confronti dei cortometraggi, della fantascienza, dell'animazione, eccetera, sì. Oltre a collaborare, abbiamo appena finito 10 giorni fa di collaborare con il Fanta Festival, e per 2 anni abbiamo tenuto gli effetti collaterali. Quest'anno ovviamente è un ritorno, diciamo, a un vecchio amore che ho anche nei confronti di Luisella Chiribini, che organizza il Cyborg Film Festival da 9 anni. Io l'ho aiutata quando ha cominciato 9 anni fa, per cui l'ho aiutata a organizzare. Lei vive in provincia, vive in un piccolo borgo bellissimo vicino ad Arezzo, dove organizza questo festival, tra l'altro con tutte le difficoltà di una località un po' molto bella, però anche un po' fuori dai giri, sì, sì, classici, no, del festivalieri, eccetera. E quindi ha chiesto a me, già appunto quasi 10 anni fa, di aiutarla a organizzare questo festival, e ogni tanto mi richiama. Lei è molto carina a chiamarmi, ma in realtà poi è più un supporto morale che di contenuti, perché poi alla fine io proietto domani sera, cioè io sarò da dopodomani, però domani sera arriva un classico, ormai un mio classico, che è Italiani nello spazio, insomma, questa serie che feci ormai 10 anni fa per Fox, insomma. Senti, che caratteristiche ha questo Cyborg Film Festival? Noi ne parlammo nelle prime edizioni e poi lei è un po' scomparsa, non ci ha dato più notizie, però adesso è ricomparsa, per cui ne riparliamo, però per chi ci ascolta spieghiamo un po' meglio cosa tratta il festival. Ma diciamo, Cyborg Film Festival è un piccolissimo festival che però ha delle ambizioni internazionali, perché ha anche un concorso internazionali di cortometraggi, di fantascienza, perché l'ambito è poi sempre quello, e di animazione. quindi è un'occasione comunque per vedere delle cose che altrimenti, come al solito, è difficile per chi non frequenta i festival più blasonati. E ha avuto le peripezie di tutti questi festival piccoli, e per assurdo adesso è ancora di più, perché vabbè, la solita polemica, ma è quella anche che mi vede insomma a collaborare col Fanta Festival. Sono festival che hanno magari anche una affrontano insomma presentano dei film abbastanza rari eccetera, che però se la devono competere con festival molto più grossi che hanno molte più risorse e che magari però propongono film che poi dopo un mese, dopo 20 giorni vedi al cinema, quindi non si sa quanto, che compito hanno, e non facciamo nomi insomma su questi festival più importanti. Quindi mi piace con l'associazione del Blue Studios partecipare, come col Fanta Festival, anche con Cyborg, perché poi il diciamo l'obiettivo di questi festival è promuovere, informare e divulgare su visioni che altrimenti c'è poca occasione di incontrare, insomma, e quindi sono un modo anche per scambiarsi saperi, che è un po' quello che poi contraddistingue tutto il lavoro che noi facciamo anche durante l'inverno, perché come sai noi comunque continuiamo. E quest'anno diciamo cominciamo ad Anghiari appunto domani per 3 giorni fino a domenica, e poi ci spostiamo a Roma dal 2, il 3 e il 4 settembre, proprio da noi nel Blue Studios a via Montello 2 dietro piazza Mazzini. Quindi ecco perché poi ritorno insomma, e Luisella mi ha chiesto lei di parlarti, perché io le ho detto meglio che ci parli te, perché poi è tuo il festival, però lei ha preferito, vista per fare in modo che questa sia una collaborazione più assidua e più presente, che parlo io al posto suo. Comunque il programma, se vuoi ti faccio sì, intanto dici quanti sono i lavori che presenteranno, che saranno presentati ad Anghiari, più o meno. Allora, più o meno, ecco, guarda, leggo con te il programma, perché in realtà io non ho fatto la selezione e non sono nemmeno nella giuria, quindi comunque ci sono almeno 18 opere in concorso e sono internazionali e nazionali, sì. Soprattutto la Spagna è sempre molto attiva, devo dire, anche col Fanta Festival mi rendo conto che la Spagna è sempre una grande produttrice di fantastico, di horror, di fantascienza, molto più che in Italia. In Italia siamo in pochi e cerchiamo di farla. E però appunto c'è anche una piccola retrospettiva del lavoro ci arriviamo un attimo, perché sono molto bravi, sono anche amici, ma in questo momento non mi va di sbagliare che mi impiccio. Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che infatti si chiamano Fabio e Fabio, diciamo, che siccome sono ancora in attesa di esordire col loro primo film hollywoodiano, che si intitolerà Mine, c'è una piccola retrospettiva sul loro lavoro da cortisti, e loro diciamo in questi anni hanno lavorato tanto nel panorama del fantastico. Diciamo fiore all'occhiello di questa edizione è proprio domenica 7 agosto, dove in tarda mattinata c'è questo professore dell'Istituto Italiano di Tecnologia che si chiama Giorgio Metta, che sta girando un po' l'Italia per presentare questo libro scritto con Roberto Cingolani, che si intitola Umani e Umanoidi, dove poi alla fine parliamo del presente, nemmeno tanto del futuro, perché si parla insomma di come l'uomo sempre di più lavora con i robot che hanno sostituito il lavoro manuale, e quindi in questo senso l'affrancamento dal lavoro manuale è un vecchio ideale al quale tutti andiamo, diciamo. Questo è un po', sì. E quindi sarebbe interessante venire a sentirlo, tra l'altro potrebbe essere un'occasione per una gita fuori porta, visto anche perché in poco più di un'ora si arriva ad Anghiari, che nella provincia di Arezzo. Beh, non proprio poco più vabbè, di vabbè, diciamo che diciamo un'ora e mezza. E, però insomma è piacevole perché la zona è bellissima. Sì, c'è, sì, sì. C'è questo museo della battaglia di Anghiari, c'è, insomma la campagna toscana è fantastica. Sì, sì, e, sì. E poi tra l'altro è dalle 18 alla mezzanotte, quindi tranquillamente uno si fa un giro e poi viene a vedere, oppure non ci viene, insomma, però comunque ci fa piacere se visita la zona, insomma. Allora ricordiamolo, Tino Franco, nona edizione del Cyber Film Festival. Sì, coinvolto anche quest'anno nel Cyber Film Festival, suo malgrado, ma con molta voglia, insomma, di aiutare Luisella, che è una forza della natura e che appunto presenta la nona edizione internazionale 2016 del Cyborg Film Festival, che avrà questa anticipazione da domani a domenica ad Anghiari e poi si trasferirà alla Sala Rossa del Comune, che viene gentilmente data dal Comune di Anghiari, che insieme all'Università degli Studi della Tuscia collabora a questo festival, e poi che proseguirà nel Blue Studios, dove siete invitati a partecipare tutto l'anno perché l'attività è continua, dal 2 al 4 settembre a via Montello 2 dietro Piazza Mazzini. Insomma, questo è un po'. Poi altre cose da dire, in realtà le potete scoprire sul sito del Cyborg, sì, che è www.cyborgproduzioni.org, e poi niente, insomma, questo è un po'. È un modo per vedere cose che altrimenti, ripeto, sarà difficile vedere in altri luoghi, compreso internet, perché poi YouTube, internet, cioè non è che coprono tutto, per fortuna, sì, insomma. Sì, sì, sì. Ed è un'occasione anche di riflessione, perché quello che sarà l'incontro di domenica mattina sarà con un professore che sta portando avanti questo discorso sulla robotica e quindi potrebbe essere interessante fargli delle domande. Insomma, il panel sarà tra fantascienza e realtà, questo è il tema, ed è per quello che sono stato invitato a parlare, perché io parlo di fantascienza e lui parla della realtà, che è fantastica, che è molto divertente stare ad ascoltare, insomma. Bene, la cosa. Tino, io t'abbraccio, ricordiamo, anch'io. Nona edizione Cyber Film Festival, Anghiari in provincia di Arezzo, da domani 5 agosto fino al 7. E a risentirci alla prossima. A questo ok, punto. Grazie Federico e grazie che sei sempre vicino a queste cose molto di nicchia, ma molto interessanti da vedere e per partecipare a queste cose è importante saperle. Bene, allora al prossimo aggiornamento. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Tino Franco per la nona edizione del Cyber Film Festival. E abbiamo con noi Manuela Vigorita, regista del documentario Ho deciso di ridere con te. Manuela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie Federico. Allora, ho visto il tuo documentario online, ho detto sì, ne dobbiamo parlare, e quindi ho preso contatti per sentirti in trasmissione. Raccontiamo un po' di questa storia, cos'è Ho deciso di ridere con te? Guarda, è un lavoro a cui tengo in maniera particolare, nato da una chiacchierata con un comico, Sergio Viglianese, che forse qualcuno conosce, di Zelig, di Colorado, così, anni fa, e grazie alla quale ho scoperto una realtà di Roma meravigliosa, piccolina, ma bellissima, un luogo dove da anni, ormai più di 10 anni, molti comici professionisti si vedono e creano lì per lì degli spettacoli aiutandosi l'un l'altro, e la sera vanno in scena. E nel senso, è una sorta di laboratorio, anche se non c'è chi insegna, non ci sono prime donne, non c'è chi guida, ma ci si mette insieme, loro si mettono insieme e si danno consigli sulle battute, studiano i pezzi l'uno dell'altro, fanno in maniera di limare i pezzi l'uno dell'altro e sono tutti professionisti, molti che vanno anche in televisione, e a volte provano lì per la prima volta i loro pezzi e la sera vanno in scena con un pubblico affezionatissimo, tutti i martedì cascasse il mondo tutti i martedì sera a Roma, in un luogo a testaccio, l'Accento Teatro si chiama, sì. E questa realtà si chiama Ma che comico. Io sono stata molto incuriosita, insomma, sia dal fatto di non conoscere una realtà un po' particolare, perché gli artisti non sempre si aiutano tra di loro, c'era molto diciamo antagonismo, insomma, e invece lì si respira un'aria, insomma, veramente voglia di fare insieme. Infatti ho deciso di ridere con te, il titolo viene un po', è venuto da questo, cioè c'è proprio una decisione di tutti quanti di aiutarsi, di proprio nel lavoro, nella ricerca delle battute. E quindi ho, insomma, insieme poi alla persona che è un po' l'anima di questo luogo, che si chiama Mago Mancini, Alessandro Mancini, ho voluto raccontare questa realtà. Uh-huh. Che anche raccontando che il lavoro c'è dietro al fatto di far ridere, che è un lavoro serissimo, ho capito parlando con loro che è veramente un lavoro molto molto serio, molto faticoso, molto, delle volte anche che dà sofferenza, insomma, un lavoro particolare. Uh-huh. E quindi ho cercato di ricostruire proprio con difficoltà, perché insomma poi i tempi televisivi, i tempi della telecamera sono molto diversi dai tempi del cabaret. Loro lì fanno cabaret, quindi sono tutti pezzi di 10 minuti, di belli, cioè lì dal vivo sono bellissimi, poi riportarli sullo schermo è un po' diverso, perché i ritmi sono diversi, è un altro linguaggio. Sì, manca, no? Anche un po' l'interazione col pubblico. Sì, esatto. Quindi è stata un po' una scommessa, che non sapevo se, insomma, non ero certa che funzionasse, però poi alla fine secondo me è venuto fuori un lavoro, insomma, bello, nel senso che fa capire questo mondo particolare del far ridere, e anche poi, insomma, sono tutti professionisti che raccontano anche il loro modo, la loro teoria sulla risata, su come nasce una risata, come si provoca, i tempi col pubblico, come si capisce, insomma, quando le cose funzionano o non funzionano, e tutto il lavoro che c'è dietro, chi fa i personaggi, chi fa i monologhi, chi fa e spiegano tutto, insomma, questo mondo del cabaret, che è un tipo di comicità particolare, insomma, non è, sono attori comici. Sì. Sono cabarettisti quasi tutti. Sì, sì, sì. Senti, e per Mago Mancini tutto com'è cominciato? Perché insomma tutto parte da lui, ma in che modo? Guarda, Mago è una persona meravigliosa, appassionata, che tiene le fila di tutto, e dal pubblico ai comici, perché i comici non sono sempre gli stessi, girano, è una realtà aperta. Nel senso che ci sono alcuni fissi che vanno volentieri quasi tutte le sere, e poi altri arrivano anche da tutta Italia, e arrivano, provano con loro, fanno il pomeriggio, costruiscono praticamente i loro pezzi nel pomeriggio e la sera vanno in scena. E Mago ha sempre fatto cabaret ed è quello che tiene le fila di tutte, ed è bravissimo sul palco, perché lui praticamente dai pezzi fatti nel pomeriggio, che sono i più disparati, insomma, immagina, che ne so, 10 comici che fanno 10 cabarettisti che fanno 10 pezzi completamente diversi uno dall'altro, e lui nel giro di un'ora riesce a fare una scaletta e a creare un filo, cioè a tenere un filo in tutta la serata, per cui nasce poi non una storia, però nasce proprio un filo che passa attraverso i comici e arriva al pubblico, insomma, che partecipa. Sì. È una persona, insomma, è difficile pure parlarci, sto sempre a fare qualcosa. Sì, perché gestisce tutto lui. E adesso tra l'altro sta facendo un laboratorio per giovani, invece, questo, dove chiama dei, ma tutto abbastanza per passione, eh? Sì. E, cioè, il pubblico è pagante, paga una cifra simbolica, non mi ricordo se 5 o 10 euro tutte le sere, vanno tutti i martedì e tutti i lunedì, però insomma è tutto molto sulla passione, ed è, diciamo, un qualcosa che viene quasi prima, secondo me, del loro lavoro, cioè qualcosa che gli serve poi a lavorare dopo, perché tanti da lì poi sono andati in giro per l'Italia. Sono diventati famosi e così. Ecco, e, mi dicevi del appunto del degli degli interpreti che vengono un po' da tutta Italia. Il pubblico credo che sia una e vorrei chiederti anche una specificità testaccina romana. Okay. Cioè un pubblico, guarda, di solito io ho capito che di solito chi va poi torna. c'è questo locale molto piccolo e meravigliosamente buio, molto carino comunque, testaccio, si scende giù, è una sorta di caverna. Però tornano, sono un po' come i comici, cioè, tornano tanto, tutti insomma alla fine conoscono tutti, chiedono i pezzi, partecipano, cioè, c'è un coinvolgimento del pubblico molto forte. Tra l'altro mi raccontavano, io non ci avevo mai pensato, che il lavoro del cabarettista è particolare rispetto ad altri artisti, attori, musicisti, perché il rapporto col pubblico è immediato, cioè nel senso. La risata è fondamentale e sta dentro il tuo pezzo, non è alla fine, no? Cioè non è come, che ne so, fai un'opera teatrale e poi dopo senti il pubblico che applaude, oppure che ne so, come noi nei documentari poi c'hai i riscontri. Loro è proprio mentre lo fanno che hanno bisogno, sentono subito la reazione del pubblico e della reazione del pubblico fanno il loro spettacolo. Capito? Sì. Non so se l'ho spiegato bene. Loro la spiegano meglio, molto meglio. Senti, Manuela, stai continuando? Dimmi. No, dimmi. No, volevo chiederti dove lo stai portando questo lavoro. Guarda, l'abbiamo fatto da poco, lo presenteremo sicuramente al Ma Che Comico a ottobre. E stiamo provando con la RAI, è una realtà molto piccola, per cui è così di primo acchito, se non lo vedono non si trova subito un parere, un interesse, no? Largo, sì. Però stiamo cercando di portarlo soprattutto in televisione, dove abbiamo insomma già contattato delle persone interessate, ti farò sapere se riusciamo a farlo vedere. E poi a ottobre non ho capito se la prima sera del Ma Che Comico, perché questo luogo si chiama il Ma Che Comico, non so se l'ho detto. Sì, l'hai detto. Ah, l'ho detto. Con le K, sì. Tra l'altro. Tutte K, sì. Ma Che Comico. Non so se è la sera, perché loro chiudono di estate, poi riaprono i primi d'ottobre e faremo una prima presentazione intanto lì, insomma. Sì. Beh, ci sarà modo magari di riparlarne, anche perché io poi l'ho visto e mi è venuta in mente anche l'idea di proporlo radiofonicamente, l'audio tra interviste comunque e spezzoni di gag della sera potrebbe funzionare anche a livello radiofonico. Sì. Sì, io penso che insomma ne sarebbero contenti. Credo proprio di sì. Comunque, anche se, ripeto, sono tutti, insomma, c'è Sergio Viglianesi, Fabian Grut, Filippo Giardina, cioè sono tutti comici conosciuti. Poi ci sono i giovani che sono anche lì, però io nel documentario ne ho parlato meno perché non riuscivo. Però ci sono anche tanti giovani che si avvicinano e con loro, con questo modo che non è cattedratico, capito? È proprio di fare insieme. Imparano proprio l'arte del ridere, insomma, di far ridere. Di far ridere. Va bene. Bene, Manuela, allora io ti ringrazio. Senti, sul web c'è la pagina Facebook e un sito internet? Guarda, stiamo mettendo il sito, okay. Lo stiamo rifacendo. Comunque ti faccio sapere, perché l'abbiamo cioè è scaduto da poco, lo stiamo rifacendo ora praticamente, sto andando a farlo. Ok, però credo la pagina Facebook ci sia, se non sbaglio. No. C'è un sito della cooperativa dove si trova anche Ma Che Comico, okay. Però lo stiamo rifacendo tutto, per tutto. Cui siamo una piccola cooperativa di donne che andiamo avanti molto faticosamente e in questa fase stiamo ristrutturando tutta la comunicazione, per cui il sito lo stiamo proprio rifacendo. Come si chiama? Però credo che quello L'altra Vista. L'altra vista. Sì. E comunque ci ha aiutato la regione, mi sa che per correttezza lo devo dire, a fare il documentario, la regione Lazio. Per una cosa di correttezza ci chiedono sempre di dirlo e sono stati molto, insomma, come per molte realtà romane la regione Lazio è, è importante per alcune cose, insomma. Allora Manuela, io ti ringrazio, speriamo di risentirci presto a questo punto. Sì, ti faccio sapere quando facciamo la prima a Roma. Sì. Va bene. Anche perché poi magari sto pensando ai più giovani dei cabarettisti, potrebbero anche, perché io poi ho uno spazio il martedì pomeriggio di radioteatro in cui andiamo, facciamo cose in diretta in studio o mandiamo in onda registrazioni, quindi anche magari pezzi brevi che sono poi quelli che loro fanno la sera potrebbero passare anche di qua, certo. Perché no? Beh, mi sembra un modo è un'altra di vivere idea. Bellissimo. Ciao Manuela, un abbraccio. Grazie ancora, ciao. Un abbraccio. Manuela Vigorita, regista del documentario Ho deciso di ridere con te. Ed eccola qui, puntuale, Simonetta Grechi, curatrice della 15ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente, Parco della Maremma, provincia di Grosseto, dal 5 al 15 agosto. Simonetta, ben ritrovata. Grazie anche a voi. Tra l'altro abbiamo presentato anche due lavori che saranno all'interno del Clorofilla, sto parlando di Contromano e dell'altro. La gente resta forse. La gente resta, sì, no, perché stavo pensando al Polline e la Ruggine che invece no, non c'è. E quindi già due lavori ne abbiamo parlato con gli autori. 15ª edizione è un bel po', comincia a essere, Simonetta. Come, scusa? Comincia a essere un bel po', 15 anni, 15 edizioni del Clorofilla. Eh sì, 15 edizioni, è vero. Non avevo mai fatto questo calcolo. A tutto tondo. Senti Simonetta, quest'anno che ci dici per questa edizione? Allora, dunque, questa edizione, i documentari che abbiamo selezionato sono quelli che sono arrivati per il concorso. E in pratica li abbiamo scelti anche in base ai temi delle giornate di Festambiente, quindi si parlerà di economia civile, esempi positivi di bioarchitettura, poi di mafia. Visto che ogni anno a Festambiente c'è la giornata dedicata a Libera, l'associazione di Don Ciotti, quindi insomma durante questi 11 giorni parleremo di tanti argomenti di cui Legambiente si occupa ogni giorno. Senti, poi il Clorofilla sta a significare la nuova linfa del cinema italiano, perché si tratta di quasi tutte opere prime e seconde. Sì, più o meno sì, si tratta per lo più di opere prime e seconde. Sono pochi rari, insomma, gli autori che hanno realizzato più lavori. Sì, questo... Diciamo, cerchiamo di farlo combinare con i temi ambientali e sociali, che sono quelli che poi vengono trattati dal festival. Senti, poi durante il festival spesso ci sono anche gli autori presenti in sala, che è poi un'arena. Sì, non sempre. Sì, spesso ci sono anche gli autori dei documentari. Sì. Senti, anche questi saranno, dimmi. Che parleranno chiaramente sono pronti anche a conversare con il pubblico in base anche alle curiosità che emergono. Certo. Senti, sono coinvolte anche quest'anno le scuole della zona? Allora, sì, quest'anno avremo una proiezione realizzata da una scuola della zona, visto che abbiamo una giornata dedicata all'agricoltura all'interno di Festambiente, abbiamo inserito un piccolo lavoro di una scuola che parla appunto di agricoltura, un corto su questi temi. E sì, questo diciamo. Senti, poi non si tratta solo di film, perché insomma il tuo impegno è legato anche ai libri e al teatro, un po' porta tutto la tua firma lì a Festa Ambiente, insomma in questi due spazi che sono poi i Tramonti nell'Uliveto e il Clorofilla Film Festival. Dal tardo pomeriggio alla sera c'è sia letteratura che teatro e che poi cinema. Sì, esatto, nei Tramonti quest'anno abbiamo soprattutto presentazioni di libri. Sì. Due sole, diciamo, incursioni nel teatro con il Trattato di Economia di Roberto Castello e Andrea Cosentino e un reading di Arianna Safonov, che parla anche di un suo libro che si intitola Fottuta Campagna. Benissimo. E poi per il resto invece sono tutte presentazioni di libri, un altro posto di Cristina Paginotti, Cambio Verso di Simone Giusti, Mai stato in Serie A di Luigi Ambrosio, il nostro amico Luigi Ambrosio, e tra tanti altri. Senti, per un po' anche dimmi. Un po' anche no, diciamo un po' anche per motivi, diciamo, legati alle finanze del festival. Il teatro, diciamo, purtroppo abbiamo dovuto ridurre un po' questa parte. Tra l'altro del Trattato di Economia ne abbiamo parlato proprio con Roberto Castello qualche settimana fa, perché era in un altro festival, sì, sempre di Legambiente, ma vicino Lecco. Sì, a Montebarro, a Festa Ambiente Montebarro. Esatto. Sì, sì. E quindi infatti poi noi, diciamo, siamo molto affezionati a Radio Onda Rossa, per cui anche diversi documentari cerchiamo di tenere in considerazione anche quello che fai tu nella tua trasmissione dei visionari. Infatti diversi autori dei documentari che proiettiamo sono passati anche per... E quindi sarà un doppio piacere poi, oltre a vedere i film, conoscere proprio direttamente gli autori in qualche caso. Senti, l'orario, allora, come funziona? Spieghiamo a chi ci ascolta per le proiezioni, intorno alle 21, se non sbaglio. Sì, le proiezioni sono sempre alle 21, mentre i Tramonti sono alle 19:15, quindi diciamo... Prima dei documentari aspettiamo i film in questo spazio naturale. Benissimo. Allora, 15ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festa Ambiente, Parco della Maremma, Grosseto, dal 5 al 15 agosto. Simonetta, ci vediamo lì. Sì, ci vediamo lì e invito a visitare il sito www.festambiente.it per vedere anche tutte le altre attività che ci sono, compresi i concerti, il teatro ragazzi, gli incontri, tutto insomma. Se non sbaglio, del Clorofilla c'è anche la pagina Facebook. Sì, c'è una pagina Facebook, sì. Esatto. E anche c'è una pagina Facebook del Clorofilla, esatto, cioè. bene, allora abbiamo dato tutti i riferimenti, io ti abbraccio e non vedo l'ora. A domani. Ciao Simonetta. Ciao a tutti. Ciao. Simonetta Grechi, curatrice della 15ª edizione del Clorofilla Film Festival a Festa Ambiente, Parco della Maremma, Grosseto, dal 5 al 15 agosto. Sara Zanisi, coautrice del documentario Il Polline e la Ruggine, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Il Polline e la Ruggine mi incuriosiva molto, sono andato a leggere un po' di cosa si tratta, lo spieghiamo anche a chi ci ascolta, Sara? Molto volentieri, certo. Questo titolo ha anche un sottotitolo, che è Storia di lavoro e di dismissioni, deindustrializzazione e lavoro a Sesto San Giovanni, perché è proprio un documentario nato da una ricerca avviata qualche anno fa da un collettivo di ricerca, quindi insieme a me hanno lavorato Sara Roncaglia, che è un'antropologa, Roberta Garruccio, con la storica economica, e Riccardo Apuzzo, che è il filmmaker che ci ha seguito in questo percorso. Ed è proprio una ricerca sulla deindustrializzazione, quindi sulla chiusura delle grandi fabbriche a Sesto San Giovanni, che è questa cittadina nell'Interland milanese, anche nota come la Stalingrado d'Italia, sì, perché era appunto una città delle fabbriche, una città, anche una città dei lavoratori, quindi anche di grandi lotte, grandi movimenti operai. Senti, mi dicevi che nella tua ricerca tu hai fatto parecchio uso della storia orale, quindi dei racconti di chi ha vissuto quelle stagioni. Esattamente, perché noi siamo appunto un collettivo, come dicevo, di storiche antropologhe, lavoriamo proprio con la storia orale, quindi in particolare con il video, con le video interviste, sì, anche grazie poi all'incontro con questo regista, che abbiamo poi pensato proprio anche ad una produzione audiovisiva come un documentario. Però noi appunto, in quanto ricercatrici, siamo un collettivo di ricercatrici indipendenti e abbiamo proprio sempre lavorato con questo tipo di fonte, che viene poi affiancata invece anche ad altre fonti più tradizionali, come le immagini. Infatti nel documentario ci sono poi anche immagini di repertorio dall'archivio della FALC e da un altro archivio che è presente a Sesto San Giovanni, perché questa ricerca è nata proprio da una pratica di ricerca che noi abbiamo, che è proprio quella dell'andare ad incontrare i testimoni, quindi i lavoratori e le lavoratrici, facendoci raccontare direttamente da loro il loro vissuto, perché a noi interessa proprio indagare anche la soggettività dentro, sì, un processo storico più ampio, capire poi gli uomini e le donne come hanno vissuto quel passaggio. In particolare in realtà la deindustrializzazione a Sesto è durata 20 anni, per cui è un percorso, un passaggio molto lungo. Tenete presente che appunto adesso non esistono più la FALC, la Breda, la Marelli, le grandi fabbriche nate all'inizio del Novecento e chiuse in realtà sul finire del Novecento. Noi abbiamo provato proprio a farci raccontare questo passaggio, cosa ha significato per i lavoratori ma anche per la città chiudere queste fabbriche e trasformare poi la città e il lavoro, in che cosa si è trasformato, quindi la ruggine ma anche il polline, perché noi abbiamo intervistato non solo gli ex lavoratori ma anche alcune nuove voci, quindi alcune nuove figure di lavoratrici, in particolare delle donne, che abbiamo intercettato in uno spazio di co-working che c'è a Sesto, e alcuni studenti di una scuola professionale che attualmente è stata realizzata proprio in uno spazio che era uno spazio della FALC. E quindi abbiamo cercato proprio di capire come la trasformazione, partendo dal vissuto diretto delle persone. Sì, sì. Dicevo, è una ricerca che è nata in realtà nel 2012, anche se poi il documentario l'abbiamo prodotto nel 2015. Noi abbiamo raccolto circa una cinquantina di interviste, okay, che sono interviste un po' a tutto tondo, cioè siamo partiti dai lavoratori, da alcuni sindacalisti, ma poi in realtà abbiamo provato a rappresentare un po' tutta la filiera gerarchica dentro la fabbrica, focalizzandoci in particolare sulla FALC, sulla storia della FALC, perché è l'ultima grande fabbrica che chiude nel 95. E quindi abbiamo intervistato anche Federico Falc, che è tuttora imprenditore ed è quello che ha seguito proprio il processo di chiusura. Abbiamo intervistato alcuni suoi manager, alcuni ingegneri, e abbiamo intervistato impiegati, impiegate, le pochissime donne che lavoravano dentro le acciaierie, alcuni sindacalisti, proprio per provare a vedere, a costruire un po' un puzzle, un mosaico di voci diverse che ci raccontassero quel passaggio storico. Senti, ecco, quindi storicamente vi siete focalizzate su un ventennio più o meno, che è quello della chiusura, che passaggio dalla chiusura alla riconversione in qualche modo. Sì, esattamente questo. Inizialmente abbiamo intervistato anche lavoratori di altre fabbriche, sì, tra l'altro intercettando quella generazione di lavoratori che erano quelli che avevano poi anche vissuto invece la stagione delle lotte, per cui anche alcuni di loro ci hanno proprio raccontato anche questo pezzettino di ritirata del movimento operaio. E poi abbiamo però provato anche a capire che cos'è oggi Sesto, e anche proprio perché questo processo è stato un processo molto lungo, perché è un processo, la deindustrializzazione, che ancora oggi Sesto si sta vivendo, perché ad esempio proprio nei giorni in cui noi chiudevamo il documentario e lo lanciavamo, partiva una nuova lotta dei lavoratori della Alstom, perché quindi una fabbrica che è stata costruita su uno spazio deindustrializzato che era quello della Marelli, era arrivata poi appunto la Alstom, che è una proprietà francese che poi è stata acquisita dalla General Electric, che continuava quindi a produrre materiale rotabile per i treni e le metropolitane, e proprio in quel periodo lì a fine 2015 questa multinazionale ha deciso di chiudere il sito Sestese, e quindi abbiamo visto come in realtà questo processo, che sembrava un processo chiuso, la città delle fabbriche ormai è diventata una città dormitorio, qualcuno ce l'ha raccontata in questo modo, in realtà ci sono ancora delle piccole produzioni, condomini industriali che continuano ad essere trasformati, rigenerati, chiusi, riaperti, quindi è un processo che è tuttora in corso. Ecco, volevo chiederti proprio rispetto alla realtà di Sesto oggi, dopo la chiusura delle grandi fabbriche, come è cambiata nel tempo. Dicevi, ecco, alcune realtà continuano a produrre e gli abitanti denunciano la condizione di zona dormitorio. Ecco, più in generale, e che altre caratteristiche ha mantenuto o ha sviluppato Sesto? Allora, questo aspetto proprio della storia più territoriale e ambientale è una cosa che a noi è interessata molto nelle interviste, quindi noi ci siamo fatti raccontare anche questo aspetto, anche se appare solo un po' in secondo piano poi nel documentario. Sì. Però è cambiata alcuni schizzi, appunto, anche perché tenete presente, noi abbiamo raccolto appunto una cinquantina di interviste con una media di circa 3 ore a intervista, perché sono interviste sul modello della storia di vita, quindi sì, sono lunghe, sì, conversazioni con i testimoni. Ne abbiamo poi ricavato un montaggio di 45 minuti, certo, quindi con un lavoro proprio di fressatura e di taglio, esatto, di questo materiale. Ecco, una cosa che non ho forse detto, ma credo sia davvero importante, è che questa ricerca, che nasce in modo appunto indipendente, ma insieme ad un archivio di Sesto San Giovanni, che è la Fondazione ISEC, che è l'Istituto di Storia della Resistenza del Movimento Operaio, insieme al nostro collettivo di ricerca che è Avoce, Associazione Avoce, e poi anche insieme al Dipartimento di Mediazione Linguistica dell'Università di Milano, che ha sede proprio a Sesto, ha anche proprio un obiettivo di raccolta di queste testimonianze, quindi tutte le interviste che noi abbiamo realizzato sono state poi riversate e sono conservate, sì, presso Fondazione ISEC. E proprio questa parte, quindi, di come è cambiata la città, ce l'hanno molto raccontata. Sesto è decisamente migliorata in realtà con la chiusura delle fabbriche, sì, perché sì, è una città molto più vivibile, molto meno inquinata, e non è affatto una città dormitorio, perché è una città anche che continua ad essere una città vivace. Continua anche ad essere una città ancora in trasformazione, perché se pensiamo proprio alle aree Falck, che sono più o meno 1,5 milioni di metri quadrati, quindi è un quarto della città di Sesto San Giovanni, in questo momento è un enorme bosco di alberi spontanei, che proprio in questo periodo in realtà viene finalmente riutilizzato, cioè tutto questo grosso progetto regionale di città della salute, e quindi di collocazione su queste aree di uno spazio, verranno riuniti lì alcuni ospedali e alcuni centri di ricerca milanesi, verranno spostati appunto a Sesto San Giovanni con un progetto, anche questo è un progetto che dura da 20 anni, noi abbiamo provato un po' a raccontare anche questo. Ecco, proprio rispetto a quest'ultimo discorso volevo chiederti se le fabbriche dismesse, i progetti di riconversione seguono una vocazione culturale e sociale, oppure sono sotto il segno del profitto e del privato? L'uno e l'altro. Allora, in parte alcuni siti, perché appunto teniamo presente che a Sesto San Giovanni nel corso del Novecento più di metà della città era in realtà una città produttiva, quindi rappresentata da condomini da siti industriali, e anche non solo però le grandi fabbriche, ma anche piccole fabbriche. Soprattutto quelle più piccole sono state poi capaci di riconvertirsi, sono spazi che si sono riconvertiti grazie anche ad una forte azione politica, perché questo va riconosciuto, appunto la Stalingrado d'Italia ha continuato poi grazie a una concertazione tra sindacato, amministrazione locale e imprenditori, perché c'è stato proprio un passaggio molto particolare negli anni 90 su questo, con lati oscuri e chiari. Noi nel documentario non abbiamo assolutamente affrontato tutta la questione, il caso Sesto, perché volevamo lavorare appunto in prospettiva storica e su fonti soggettive che parlassero proprio delle singole persone, quindi non dei grandi protagonisti più noti. Ci sono casi virtuosi, quindi di spazi che ad esempio il comune ha protetto e quindi ha trasformato, ad esempio il Carro Ponte a Sesto San Giovanni, è un ex parco, l'ex Carro Ponte della Breda, che è stato proprio acquisito dal comune e trasformato, adesso è un centro culturale, è uno degli spazi più vivaci dove si fanno concerti, si organizzano mostre, c'è uno spazio teatrale. Quindi è anche un altro spazio di co-working, sempre appunto questo spazio di cui parlavo prima all'interno delle aree FALC, grazie proprio all'intervento sempre del comune, è stato trasformato in parte in sito di formazione, in parte proprio in co-working creativo. Ci sono poi esempi invece di privati che si sono messi a fare questo e quindi hanno rilevato dei siti dismessi, trasformandoli e rendendoli anche in questo caso co-working di invece alte tecnologie. E ci sono poi invece ancora un sacco di spazi abbandonati, soprattutto quelli più piccoli, oltre alle aree FALC, e poi invece altri siti che sono stati trasformati, ad esempio il Dipartimento dell'Università di Milano adesso è stato collocato appunto alla fine degli anni 90 in quella che era il sito della Marelli. La Marelli è la prima grande fabbrica che chiude a Sesto ed è stato trasformato in un centro direzionale all'interno del quale c'è anche una sede dell'università. Ecco, un'altra curiosità, con questa chiudo, rispetto per esempio prima, parlando di un altro documentario su Taranto e sull'Ilva, chiedevo rispetto alla realtà lavorativa e giovanile, anche qui a Sesto ti chiedo qual è la situazione. Allora, purtroppo ecco, questo è un aspetto che abbiamo indagato poco, nel senso che non ho dati quantitativi o qualitativi raccontare meglio la situazione. Posso farti solo un accenno a una delle persone che abbiamo intervistato, un'intervista molto bella fatta tra un padre e un figlio. Il figlio attualmente lavora, quindi figlio di un operaio che lavorava in acciaieria, ragazzo di 24 anni se ricordo bene, attualmente lavora come receptionist in un albergo che è stato costruito all'interno di quello che era il villaggio Falk, quindi villaggio operaio Falk, una piccola porzione di questo è stato acquisito da un privato e trasformato in un albergo. E questo ragazzo lavora lì dentro, quindi abbiamo intervistato lui e insieme a lui anche il padre che invece lavorava in acciaieria. E questo ad esempio è sicuramente un esempio, chiaramente un lavoratore precario, un lavoratore poco formato, che però ci raccontava molto bene l'impatto che ebbe su di lui l'acciaieria. Cioè, c'era un momento in cui i lavoratori della Falco potevano portare le famiglie dentro a vederlo, questi open day che venivano fatti in modo un po' paternalistico, e lui proprio ci diceva: io quando ho visto l'acciaieria e quando ho visto l'inferno che era, ho sempre pensato che io là dentro non volevo andare a lavorare. E quindi ti dicevo, come prima, insomma, ci sono sicuramente degli aspetti positivi perché è un miglioramento del lavoro, ma il negativo è la precarietà, la frammentazione, e proprio anche la frammentazione delle persone che sono dei singoli, non sono più il collettivo, come era invece la fabbrica, la comunità. Sì. Senti, il Polli nella Ruggine che via seguirà? Allora, questo è un documentario, come dicevo, prodotto in modo indipendente, che quindi ovviamente patisce tutte le fatiche della circuitazione anche indipendente. In questo momento lo stiamo promuovendo in modo autonomo, per cui organizzando presentazioni, l'abbiamo presentato a Sesto San Giovanni ovviamente, ma abbiamo fatto anche alcune proiezioni a Milano e continueremo a riproporlo a Milano quando capiterà l'occasione. Stiamo organizzando proprio per l'autunno una proiezione insieme alla Camera del Lavoro metropolitana. Stiamo anche provando a portarlo un po' in tournée, quindi organizziamo in modo appunto direi quasi casuale, cioè dove abbiamo dei contatti anche in altre città, lo porteremo anche a Roma. Il 10 settembre sarà proiettato a Roma, ma all'interno di una scuola di storia orale, per cui in realtà sarà per le persone che frequentano, però vorremmo anche poi poterlo, stiamo ragionando col sindacato, con la CGIL, per capire se possiamo fare una presentazione anche più pubblica anche in città. dovremmo portarlo anche a Torino. La cosa che vorremmo fare è quella poi di poterlo rendere disponibile online, perché soprattutto la comunità testese dei lavoratori ci tiene molto. E una cosa che non ho detto è un documentario che è stato prodotto anche in modo molto partecipato con le persone che abbiamo intervistato. Cioè noi poi abbiamo condiviso con loro il montaggio, l'abbiamo rivisto, abbiamo fatto, e quindi si è comunque creato anche intorno a questa ricerca una nuova comunità di confronto, di discussione, e questo vorremmo poterlo portare avanti, magari appunto potendo mettere online sul sito di Fondazione ISEC, che è il partner istituzionale che ci ha sostenuto in questa cosa. Noi avevamo lanciato anche una campagna di crowdfunding per produrre il film. E per saperne di più, in rete c'è la pagina Facebook, un sito internet? Sì, allora non c'è una cosa specifica del documentario, però esiste la pagina Facebook e il sito sia di Fondazione ISEC, che è www.fondazioneisec.it, sia di Avoce, che è www.avoce.eu. Sulle due pagine web e sulle rispettive pagine Facebook noi continuiamo comunque ad aggiornare, c'è anche materiale, c'è tutto il making of del film e della ricerca, e continueremo comunque appunto a pubblicare e raccontare un po' come procede il lavoro, perché è una ricerca che è nata lontana ma che sta anche proseguendo proprio grazie alla collaborazione con Fondazione ISEC. Benissimo. Sara, ti ringrazio, un abbraccio e speriamo a presto. Grazie mille, vi faremo sapere, insomma, se riusciamo ad arrivare a Roma ci faremo risentire. Perfetto, alla grazie prossima. Grazie mille, buon lavoro. Ciao anche a te, ciao. Sara Zanisi, coautrice del documentario Il Polline e la Ruggine. Con questo chiudiamo la puntata che ci ha portato alla chiusura stagionale di Visionari, che torna ad inizio settembre, credo sia giovedì 1° settembre, se non sbaglio, calendario alla mano, la prossima puntata. Vi lascio all'automatico. Per quanto riguarda tutte le informazioni sulla trasmissione, sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale, trovate tutto sul sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page, colonna centrale, la voce Visionari, e la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.